I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Adesso non ci si venga a dire che non c'è qualcosa di strano in quello che è successo anche ieri sulla borsa italiana. Su Milano, oltre ai cali generalizzati, si concentrano fortissime vendite su tutti i titoli bancari. Il Monte dei Paschi, ieri schiaffeggiato in borsa, non riusciva a fare prezzo, così come la Cassa di Risparmio di Genova, ma anche altri titoli bancari. E allora, come scriveva ieri Sole 24 Ore, bisognerebbe capire perché, se il tasso di copertura delle banche italiane rispetto alle sofferenze bancarie, ossia i crediti che non arriveranno più, è superiore alla media europea, e andando a guardare anche alle garanzie sui crediti si arriva all'88%, bisogna capire perché tutte le vendite si concentrino solo sulle banche italiane. Speculazione, c'è chi indica gli hedge fund, ma sicuramente una pressione psicologica che non si giustifica solo con il fatto che noi abbiamo una percentuale di crediti malati superiore alla media europea. Se ci sono le garanzie e se si vorrà fare una bad bank, questa pressione potrebbe trovare un'altra spiegazione. Obbligare le banche a vendere i crediti maggiormente garantiti a prezzi di saldo e poi guadagnarci. Ma speculazione a parte, a questo punto è fondamentale che le autorità italiane, Consob, Banca d'Italia e Governo, rassicurino il mercato e soprattutto dall'Europa arrivi una risposta veloce, non lo è stata finora, sulla bad bank e sulle caratteristiche che dovrà avere. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il rimbalzo dei mercati finanziari è sicuramente una boccata d'ossigeno per delle borse che hanno perso più del 30% in pochi giorni, in poche settimane, e che hanno gettato un'ombra di pessimismo su tutti i mercati finanziari e su tutta l'economia. Ma è meglio essere prudenti, non è soltanto un fattore di liquidità o anche quella che ha promesso appena Draghi, dicendo che presto potrebbero aumentare gli stimoli monetari della BCE. Qui serve di più. Una boccata di denaro in più può far risalire i titoli, ma certamente non basta a far risalire le economie. Lo scontro con l'Europa è duro, resta duro anche per l'Italia, ma soprattutto è ora di prendere decisioni serie su che cosa si deve chiedere a Bruxelles e su che cosa andiamo ascoltati. Continuare a pompare liquidità sul sistema finanziario certamente aiuterà le banche e soprattutto i mercati azionari, ma serve molto di più. Serve soprattutto recuperare una voce con l'Europa che getti delle condizioni per andare avanti insieme. Non basta soltanto avere una moneta per dire che esiste l'Europa. Servono atti concreti per restituire fiducia e soprattutto lavoro a tutti quei paesi che dalla costituzione dell'euro hanno ancora visto pochi benefici sulla propria economia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.